Stai lontano da sto cuore, a te volo tuo pensiero, niente voglio e niente spero che tenere sempre a fianco a me. Sì, sicure che st'amore, come sono sicure te. Hai vita mia, hai cuore, e chi stu cuore, si stato o prima amore. Io prima e l'ora mi sarà per me. Quando a notte non ti vedo, non ti sento in tasti bracci, non ti basi che sta faccia, non ti stringo forte un braccio a me. Ma stanno ma sto suono, ma fai giagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si stato o prima amore. Io prima e l'ora che mi sarai con me. Scrivo sempre, stai contento. Io non penso che a te solo, non pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore, e chi stu cuore, si stato o prima amore. Io prima e l'ora mi sarrai per me.